programma di Facendo Sai. Spacchio. Non funzionano. Spacchio. Programma di Facendo Sai. Chi è? E chi è? Ciao Tore. Buonasera. Solo sì. Sono arrivato adesso. È mezzogiorno che mi ha accompagnato nel delirio. Beh, questo sicuramente non ci sono dubbi. No, stasera sono andata bene la partita e poi ho detto, sono rientrato adesso. E ho visto che sei entrato adesso. Vabbè. Mi dicono di chiamare a Battisio, ma non mi rispondi. Sarà andato a passeggiare. Se non risponde, sono andato che non c'è a casa. Infatti. Vabbè. Se vuoi entrare, entra, se no. Come male che hanno due. Vabbè, indubbiamente. vabbè, non sai niente, no. No, io da voi, vabbè, ma via il cellulare in giro e accontenne con le cuffie, accontenne buono leggeramente dei gruppi. Allo telefono? Allo telefono, ma via la cuffia, ma via, allora io no, la cuffietta, ma io con il cellulare in fiacca, gli era accontenne. Mi sa che ci ho fatto di accostarli io. Uff. Sta sempre in chibi, ticchi tacchi, vedi? Stavo guardando a vedere da dove entravano, nella mappa. Adesso, ultimamente, in questi ultimi minuti, ce n'era un po' dappertutto. Dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia, un po' dappertutto. Vabbè, comunque. Sì, no, a me piace con la versione canalizzata, quella mi piace di più, perché possiamo chilometri. Infatti anche a me parlarci in pochi. Io con ieri mi mari che sono entrato in quattro, erano, poi sono entrato io e stavamo facendo sempre a giro noi, stavamo parlando bene. Hanno cominciato a entrare altra gente. Ci ha arruinato tutto, Giuseppe. Arrivederci a tutti. Io ho toccato cosa, devo vedere, è andato. Ho toccato un po' tanto e sono uscito negli altri canali, adesso già sono tornato. Ha toccato un tastino? Un tastino qui dalla radio e sono finito addirittura in un'altra banda, in un'altra frequenza. Anche a me me l'ha fatto l'altro giorno. Perché ho tantissimo di giochicito, per una domanda di giochicito. Succede, no, le rubulette, no, quello bellino, ha già toccato e si sono riuscito a fare. Come te che tu dici, se riesci, se ne può, se riesci. Infatti, mi devi dire cosa c'è lì giù. Vabbè. Si fa così, tanto basta per il tempo che gira. Infatti, no, è meglio ormai che sera io, quando mi dico che partita così, anche tanto, ho la meglio la televisione la mattina, insomma, così poi, e da voi, capitelli, magari, posso andare a fare un giro, a casa di Baretti, eccetera, no? Ora l'ultimo capitale di una grande pizzeria. Stasera è così, tu sai che non ne attendi l'aria né da nida, la gira vista Rai, da che lo ne attendi. Sì, è la giurista, ne attendi la macchina della nera, però anche la due no, quando ero bagno della partita, così veniva, scusate, la tribuna, io ho trovato a via che gli arrivedeva, questa poi ho visto che era la rufola, lì era un po' bello, la treccia, e dunque, io che la zona di lui, io mi sono cosa fatto. Chissà, Già era tutta la notte, vendeva piano piano, piano piano. Si sa che non nasce chi da voce, va. Ragazza, ora, da posso sì, da posso sì, sì. Cos'è poi il giugno, e dunque se lo tratta con te buco, la natura. E fa, che fa così, tocca fa, e vabbè. Anda per anda. Chissà che lei ha al PMR. Non l'hai già attesa, me l'hai già curato io. Dunque no, no, non lo so. Aspetta che con tu. Ecco qua, vai a te, no? Vai a te, vediamo un po' se va con il giamma. Ma non credo, però. Oh, io, non ha più bravo nessuno, mi va a vedere che va a te. No, già qualcuno già entra. Mi andiamo. Maria deve darsi in campagna di avvigliura, se no per i nomi è in campagna di avvigliura. Può darsi buro, in effetti è del buro si fa della battigliata, è naturale, è normale, e ormai la moda è un'altra, andà in giro a mangiare la vita, e dunque la gente riesce domenica. Profitta che la parola quando lo faceva, se quando faceva la buia si tegava di stagione. Infatti, quando piove è brutto, ormai ha iniziato serena serena, ce n'è finita che ho mangiato serena serena. E quando giochi due gruggani che mangiano a risette mancudesi, era fini fini, a giocare arrivato alla cabina, ma basta, non ha fatto più. Capite, già volusi, ti ero via. E vabbè, comunque, allora aspettiamo la testa, tanto noi non possiamo fare niente. Se ha deciso la natura, vuol dire che va. Attento, Battisio, Natti, né Battisio, né Marino, si intende, boh, né Gian Maria, non si intende più nessuno. Incredibile. Ma Marino è entrato a rimane a sera, ha detto un attimino, entro subito. Poi è entrato, come ti ha salutato Marino, è entrato Bacchisio. E Marino è entrato più. Infatti, vero, succede, io per la verità non mi sono mica chiede, la sera, tutta la sera. Che si va a sistemi che entra qualcuno e la bomba ci non entra mai nessuno e allora cosa posso boh. Io la sera di solito difficilmente riesco e dunque da una delle quattro una cosa del genere attendo magari buono lo squetch ma se non tengo sempre di cose molte e attendo buono la televisione e abbaglio la televisione questa data che qualcuno entra in frequenza ma non entra più nessuno. Per fare che nel tiro tutto non si va bene da più, questa roba cosa lo bongo, in che soppaco, se lo bongo, se lo catturò e me ne mette dietro. Così andai a vintare un arrugo giù, arrimoni lì, ecco giù, vabbè, io a Sinoghi, progettile che appena appena di debutare. Tanto sono sempre Burelli, Fendi, la voglia. Allora, così la gente ne una di buona, banda a pecca, ma qui su bussu va. E gli ero greve, a nati tutti siamo affuttiti. Già era lì che tutti siamo affuttiti, tu, ya, ero greve. No, è finito, lì la ragione, no, a vedere tu mi dici, andare a vita in chivio tra San Martino, no, invece a me ne San Martino, vederlo in chivio è una cosa che da voi non riesco a utilizzare, ma che non è tra nessuno, andando da tua madre, mi sarò un capo da mezzo di birra, ma come ti dici che lo storie, eh? Cavatelo nel fuivo, cavatelo nel loro. Vabbè. L'ha già fatto tutta questa fatica e penso che anche il ma punire lo rampiri e a buia a Sarra, no, a me ne vengo in occhi, se non è cosa, ridappo. L'accendo, se vuole entrare, entra, in se no, pazienza. Sì, così. E c'è Maurizio via. C'è lui dopo due lì, Maurizio è che forse per passare la fantasia, Maurizio Motivo. E sta a vedere la mia amica, la messa in casa, e va a vedere avanti, aiuto, canta. Ok, ciao, fra. Ben entrato. Lì. Faccio anch'io, ho accesso così, nemmeno 10 minuti. Per cui no. No, stiamo ascoltando anche in quell'altra applicazione nuova. Nuova per un po' modo da dire, perché esiste già un po'. Però, stiamo ascoltando, ma... Oh, il gruppo, il timido, non è che mi deve stare. 30 bassoni, 30 zico bassoni, no, non è possibile. Ma se io venire il detto mi zico. Oh, io. Venga, ma prendi. Andare così. E finché gli andiamo irrugalizzando, vabbè. Quando abbiamo fatto la prova a grande sabato, mi sbaglio, prendo di fra. Così andare sul canalizzato, mi sta anche bene. Ma entrare lì, in quei gruppi, nei disperati che si continentali, che sono uno più duro dell'altro, e allo stesso tempo non lasciano mai spazio, non lasciano per entrare. Tutti gli altri sono lì, fate lì, Jack lo svelto, non fate niente, e sta sempre chi c'è, continuamente, se traga un attimo di spazio. Pazienza. Avanti, Tore, per Franco. Ok. Buonasera, Fran. Così è. Che essere canalizzati in un canale solo va bene, ma non ha per canali che me ne so 35, 40, poi non è più manco mai meglio. E andate. Fra, ma in fretta eri parlando, qualcuno ti stava perseguitando. No, oh, perché se ho visto che sei entrato in fretta, due parole e via. Infatti è quello che sto dicendo io. Sì, ho visto che anche Gianluca ce l'ha l'iscrizione, come ho visto la tua, come ho visto anche quella del Bombolo. Ma con Bombolo sempre quando ho parlato stasera, quando io ero allo stadio guardando la partita, nella pausa del primo, tra il primo e il secondo tempo, ho parlato con Bombolo e col padre. Anzi, nella verità ho iniziato col padre, con Pierpaolo, e poi è entrato salutare, ho salutato anche Antonio Bobo. E dunque così mi va benissimo. Parlare nel canalizzato per me è l'ideale. Perciò ricordiamoci che noi quando andiamo lì andiamo esclusivamente sul canale 1, anche se noi da voi non ci sappiamo mai, invece guardando la mappa vediamo che c'è qualcuno guardando la mappa e il radar, e facciamo un tentativo, però sempre sul canale 1, ricordatevi, quando dobbiamo incontrarci con Sassari e Zona Limitrofe, sempre sul canale 1, perché chi si mette 40 i canali, e se no si bidimo, anche se ci siamo ci parliamo lo stesso. Avanti, Tom. Infatti, su quel canale lì, che ero impegnato io, non potevo adoperarlo. E mi si via il telefono, carico. Sono entrato anch'io stamattina, perché non lo guardo, poi invece ho avuto da fare. Davvero? Ehi, a Luca, davvero, buonasera anche a te Luca. Buonasera a tutti, dai, ciao Giulio, Tore, non so chi ci sia, Franco, basta, lo ascolto, avanti, riprendi tu Giulio. Ok, ciao Luca, anche tu eri nel gruppo ascoltando stasera, che ho visto che eri presente, perlomeno che eri collegato, anche se magari non ti ho sentito parlare. Stavo dicendo che se quando noi ce ne andiamo sul canale 1, quello canalizzato Luca, e ci sintonizziamo sempre sul 1, in modo che non ci perdiamo, almeno se ci siamo sappiamo che dobbiamo entrare sempre sul 1 per trovarci. Io stavo pensando a quello, Luca. Dai, riprende, fai girare tu per Franco. Io anche acceso stasera in quel canale là, nell'1, non c'era nessuno, vabbè. C'è problema, al limite se ci troviamo lì. Non so se mi ascolta Franco, avanti Fra. Ah ok, dai, ho visto che non è in basso, ma ho detto ma lei non mi ascolta. Andava bene, dai, la radio è forte, il segnale che è basso, è 3. Va bene, avanti Tore, riprendi. Luca. 7 a 0, dice Buccio, c'è la gira. Perché? Aspetta, mi si incidenti, lo smitter mi si incidenti. Beh, anzi, aspetta, non mi arrivi mai così forti voci. E te la gira, dice Buccio, c'è la gira. No, vabbè, sono a casa della mamma, sto facendo la mantova. Lo so che stai usando la mantova. No, oh, le altre sere non mi stavi arrivando forte così. Mi sei con le Neo Smitter. Vero Giulio? Beh, quando lui è a casa sua, a casa della madre, esce fortissimo. Luca arriva benissimo un po' dappertutto, per cui quando è vabbè, lì nella zona tua adesso è l'Ateniino e non accetto la stessa resa di questa. Vabbè, va benissimo Luca, io a voi, a bomba, come al solito, sempre un bel po'. Avanti, Franco. Sì, e beh certo, no, cioè è forte con quel microfono, poi quando si alza la portante è come che stia dando un colpo sull'incudine, un colpo di mazzetta sull'incudine, proprio una bella intrusione di lusso. Date in buca, non ti preoccupare. Oh, yeah. Vabbè, stamattina ho sentito anche tua madre che ha telefonato al solito sistema, l'ho sentita, adesso sei ripresa, sì. Registrato, c'ha sempre questa pressione alta, sta facendo questa cura adesso, speriamo bene, dai, avanti Black. Ok, buonasera Luca, buonasera Tore, Giulio, Gianfranco mi sembra di sia altro, non ho ascoltato bene, ma chi c'è da quella parte là, avanti Luca. Ciao Bacchi, salutoni, dai, buonasera anche a te. Franco, da sorso, riprendi. Ciao Bacchizio, ben entrato. Vabbè, ti volevo chiedere se tu ce l'avevi con la nuova applicazione, ma no, non ce l'hai perché tu non hai lo smartphone, mi pare. Perlomeno dal telefonino mi sono accorto che non hai lo smartphone, dunque non ti puoi fare l'applicazione Midland. Confermi Bacchizio. Confermo che ce l'ho. L'applicazione, no, non mi interessa adesso vendere l'applicazione, no, non ci tengo affatto. Vabbè, ancora un'altra pasticcia provavelmente, hai capito giù. No, tu c'hai il numero vecchio del piccolo, lo smartphone ce l'ho, il cuore ce l'ha. E magari il telefono te lo do anche a te. Ok, ho capito. Vabbè, ma mettilo su WhatsApp e me lo mandi direttamente su WhatsApp, così se ci dobbiamo mandare un messaggio su WhatsApp, va bene così. No, non lo sapevo, pensavo, no, perché appunto non mi risultava, perché tu lo sai, no? Quando uno ha lo smartphone allora risulta che uno ce l'ha e puoi comunicare tramite WhatsApp. Che te lo segnala, no? Il telefonino che usi. Va bene, c'è anche Tore, avanti Tore per Bacchizio. Ok, buonasera signor Bacchizio. Va bene così. Andare, riprende la Bacchizio. Ma sento un attimino che sto facendo cosa. E tu sempre cosa si vedi, quando non ti ha televisione. Capito? Abbiamo capito che quando la TV quando stai parlando, ma non bisogna dirlo a nessuno, Luca avanti. Allora, raga non va, ciò fa di meglio. Niente, io sto qui, tu hai un computer che me l'ha fatto per sistemarlo, così non so appena adesso consegnarlo, comunque vabbè, appena mi danno il dindino lo consegno, riprendi tu giù, dai, ma con ascolto. Ok, va bene, sì, ma sì, diciamo che non mi entusiasma il discorso quando si modula sul sistema gruppo, quello non mi entusiasma, ma sul sistema canalizzato devo dire che è ottimo, veramente ottimo anche quell'applicazione nuova, per cui ci sentiamo noi e basta. È il vantaggio, sai qual è il vantaggio? Che non abbiamo bisogno di un'antenna, è un raggio di 30 km tutto attorno, possiamo collegarci sempre con le persone. Senza bisogno di un'antenna, senza bisogno di niente. L'unica cosa che si rimane è la batteria del telefonino. Ma io ho anche il tablet, perciò quando sono a casa eventualmente utilizzo il tablet, che dura molto ma molto di più la batteria, e, ma ah, 3 o 4 volte in più del telefonino dura la batteria del tablet. Infatti anche quando la metto a caricare ci impiega 5-6 ore, perché giustamente ce ne sta di più dentro di ampere, e allora ci vuole anche più tempo sia che a scaricarla che a caricarla, è ovvio, no? Avanti fra. Ecco un attimo per un controllo. Scusate, Luca. Eia. Spostati sul 25 attimino, buonasera a tutti e a dopo. Ciao Tino, avanti. Posso entrare? Certo che puoi entrare, ciao Gianni. E ciao Tino, se stai ancora ascoltando. Sì, vediamo un po' il controllo per te, Santiago è oltre il 9.10, già. Diventa la portante che ti dico con l'esattezza, vai, la radio è sempre la solita. E allora già sta andando bene, perché stavo facendo una prova, perché c'era un PL che era mezzo staccato, dai. L'ho saldato, adesso sto provando. Ok dai, vi ringrazio, non posso stare all'ascolto perché c'è gente a casa. Ci sentiamo le prossimine, buon continuo con se ho. Ok, ciao già, alla prossima, già sta andando bene, no, non c'è problema, 9.10 è modulato e arriva anche a 9.12, 9.13, per cui va benissimo così. Va bene, avanti Franco. Ciao Gianni, 9 Radio 5 della Pesicata, come sempre. No. Sto dicendo, Giulio, la batteria, la busetta te la butta giù. Come ci stai 10 minuti comincia a scendere come un rubinetto. Sì, beh certo, appunto quello che stavo dicendo, lo smartphone, infatti a casa, quando sono a casa io utilizzo il tablet, che mi sono registrato anche lì con il suo numero di telefono, perché il telefono ne ho due, no? Dunque iscrivere sia sullo smartphone che sul tablet, per cui va bene così, ho due possibilità insomma, ecco. Andare avanti Battisio. Ciao, è così, a 2 a 2, io penso che durerà di più la batteria, sai perché? Perché caricare ci vuole tutta la notte, ci va a caricare l'acceso poco fa, caricare tutta la notte ci sta a caricare. Caspita, vabbè, ma se ci impiega molto vuol dire che dura molto anche a consumarsi, eh? Sarà di quel tipo al litio che hai tu, magari dura molti soldi, ma tira via, è dura la verità, non è che non dura, diciamo che mi dura una mezza giornata, già mi dura, se la uso, cioè se la carico fino al 100%, e uso quella farina lì, una mezza giornata già mi dura, però sai cos'è, ricarica oggi, ricarica domani, va a finire che la batteria dello smartphone, si guarda perché troppe ricariche, perché anche la batteria ha un certo numero di ricariche, dopo va caputo anche quella, e vabbè, comunque, poi mi serve a cuppare Muruba, avanti qua. Senza. Tu almeno hai la possibilità di cambiarla e la togli, di toglierla e metterla in un'altra. Io niente, io devo portare alla sicurezza, perché la mia è tutta interna, è tutta saldata. Ah, se ti devo dire di più qua, probabilmente ne avrò anche qualcuna precisa, siccome io telefonini ne ho 7 o 8, tutti i telefonini che ho avuto li ho sempre rinnovati eccetera, tutti messi da parte e che tutti funzionanti, e bisogna che controlli se c'è qualche batteria che può andare bene per lo smartphone, in modo che possa fare proprio come stai dicendo tu, la ricarico e poi la cambio simultaneamente senza nessuna perdita di tempo. Va bene, avanti i bacchini. Il mio non ha che batteria, è un integrato, capito? Ma l'ho detto, dice che quando esaurisce fino a 10.000 volt la posso caricare, poi buttalo via, non c'è nulla da fare. Ehi, vabbè, buttare non ce lo butta perché non c'è bisogno di buttare, questa che funziona, quando non funziona quando vai con un comune lo chi ci ha messo in un comune, il buco sarà ruda, quando non funziona però ma perché funziona? Bene, va così fra. Ecco. Allora, bisogna fare la fatica di metterlo sotto la ruota, per ora qui. Oppure se lo butti dentro il compattatore, tu gli assaggi a lui. Vabbè, lui. Metta il bambino. A fare lo stoccaggio. Vabbè, siamo rimasti due soli, noi tre siamo rimasti, io, tu e Bacchidio, basta. Gli altri sono tutti in quadri, sono e non riprende, quando riprende gli altri fa sentire, non c'è bisogno di non richiamarlo. A parte Bacchidio. Sono scrittore al telegiornale. Nuova creazione, questi smartphone stanno facendo, però c'è più leggeri e più cosa, e li buttare prima perché non c'è batteria, secondo se esaurisce l'attrezzo, non c'è nulla da fare, o lo porti a un tecnico, lo fai cambiare, non lo so come sia la questione. Cambia la batteria che funziona di nuovo. Costa una quindicina di euro, 15-20 euro la batteria dello smartphone, magari costa un patrimonio. Se uno ha un telefonino importante, che ha pagato un po' di soldi, se ne vale la pena. Il mio non l'ho pagato poco, ma non l'ho pagato nemmeno esageratamente. Per me è tutto, ma che me l'ha regalato mi figura, e dunque io non ho pagato niente, primo. Secondo, non costa niente così 100 euro, questo è il contatto, è la parte secondo me, perlomeno per me, per le mie idee, poi ognuno fa quello che gli piace, per il professore ci mancherebbe altro, però secondo me è per quello che serve a me, va benissimo, anche un telefonino da 150 a 200 euro, non è che devo stare a fare o ci metto buona a casa per un telefonino, guarda. Oggi i telefonini costano lo stesso, perché vuole un telefonino buono, ho preso l'iPhone, l'ho preso perché è piccolino, per metterlo in tasca, tutto, e l'ho pagato quasi 300 euro, l'ho pagato. L'altro che ci ha preso, che ci aveva la Wii, ci ha preso, quello lì, è sempre una bomba, tuttora è una bomba quello lì, e anche quello c'ha la batteria che non si può togliere, e deve portarlo sempre all'assistenza per cambiare la batteria, perché una volta sulla Wii, una volta che si cambiano la batteria, si cambiano anche il vetro di sopra, il monitor. Così, questo non lo so. Ma io i problemi non li ho, a 20 metri dall'abito io c'è uno che le ripara, il computer, il tablet, il telefonino, eccetera, eccetera, per cui. E poi tanto riguarda, mi sbaglio, devo fare molato, però ripeto, senza mai se mi vuole la casa, ma come ho detto, ma non va bene su blu. Mi va benissimo, io ce l'ho fatto una Huawei e va benissimo, funziona, mi trovo molto ma molto bene, ce l'ho già un paio d'anni quel tipo di telefonino, la custodia si è già tutta invecchiata, e l'avevo ricambiato la custodia, però il telefonino è nuovo fiammante, perché è sempre dentro la custodia, per cui è riservatissimo e mi va bene, io lo uso non solamente per l'applicazione Midland, ma per tante cose, intanto lo uso tutti i giorni, leggo il giornale, tutti i giornali, così sportivi, eccetera, poi uso anche l'app del Pinterest, mi piace vedere anche tutte le cose che ci sono sull'elettronica, perché mi sono iscritto anche su Pinterest, poi guardo anche molto YouTube, insomma è il frutto, devo dire che lo frutto, ce l'ho già un paio d'anni, ma è sempre perfetto, avanti Bacchi. Ok, infatti siamo perfetti quelli, vediamo se Tore ci affaccia. Tore non ci ha bagnato lo Zurigo, capito? Gianfranco, lo Zurigo si è bagnato a Salvatore. Ehi, lasciamo fare Bacchi, lasciamo fare. Vuol dire che c'ha qualche impegno buono. Ciao. Sì, la Wii viene utilizzando, non è che il monitor, perché quello di mio fratello mi hanno spedito in continente per cambiare. cambiargli la batteria e gli hanno cambiato anche il monitor, perché sulla fattura che gli hanno mandato c'era anche il monitor. Ho capito, ma allora se così comincia a essere una spesa un pochino abbastanza importante, ma vabbè, uno prima di farlo riparare chiede, se no non lo fa riparare, per pensa se lo compra nuovo e basta. Io non lo so. So che la batteria costa intorno a 15-20 euro, però per il fatto del monitor questo non lo sapevo e non lo so, la verità, non so nemmeno se il mio vuole cambiare il monitor quando devo cambiare la batteria, ma non credo, perché la batteria la stacco tranquillamente come tutti i cellulari che ho avuto, per cui non c'è bisogno, basta che io la abbia su io la testa, perché c'è un fortellino, non c'è nessuna cosa, chiusura di particolare, il solito fortellino la svita, e togli la batteria e la puoi rimettere tutto lì, io ce l'ho così. Andate, batti. Ma il mio non ce l'ha così, è tutto intero, tutto sigillato in giro, non c'è uno spazio neanche infine che c'è vita, non so come fanno ad aprirli, boh. Ci avranno qualche attrezzo loro per tirare fuori il coperchio. Quando il monito io, sembra tutto cedinato, tutto un unico colpo, sembra. Infatti mi domando, guardate là, sta pulizia di componente dentro, si è sdrarrato. Evidentemente c'è il modo come aprirlo, ci vuole l'attrezzatura giusta per poterlo aprire, senza rovinare la carcassa del tablet stesso. Quando si vede, non lo so, la verità, non lo so come si deve cambiare la batteria del tablet eventualmente se dovesse succedere, ma non mi interessa, se si guarda deve recuperare di un altro, o lui sta preso proprio, tanto, perché come, secondo come, se c'è da fare tutto quel lavoro, spedire per continente, allora tanto male, ando da Media Wonder e mi ricompare di un altro. Sì, ma vabbè, a lui gli hanno mandato non la fattura del pagamento, gli hanno mandato la fattura dei componenti che gli hanno sostituito, gli hanno mandato, perché a lui gli hanno fatto in garanzia, gli hanno fatto, non ha pagato niente, non ha pagato. Però se paghi dovrebbe essere costoso quell'affare lì, per cambiarti tutto quello. Beh, suppongo di sì, se è in garanzia, vabbè, tanto di guadagnato e va bene così. Ma se deve pagare, suppongo che non sia una cifra di poco conto. Vuoi che non ti ribiglia la macchina 150 euro? Allora tanto male, vale, me lo compro nuovo. Mi pago di petto 200 e me lo compro nuovo. Non sto lì a pensarci due volte, cosa so qua. E così non devo stare aspettando magari un 15 giorni per quando te lo rimando e niente. E poi te dai nuovo e basta, magari di quelli più all'avanguardia, di quelli più moderni, e con più applicazioni, eccetera. Anche se le applicazioni non mi interessa, cosa mi dà appunto a me le altre applicazioni. Mi bastano quelle che utilizzo e viene semplicemente a fare i buchi. Avanti, Bacchì. È così. Io in tasca sono sempre piccolino perché è più comodo, trovo un barrasone di corso, del radio non finì più, dunque mi tengo piccolino sempre a portata di mano. Sì, anch'io, io ho quello piccolo, tutti e due ce li ho io, sempre quello, ma solo perché tanta gente non ha il nome, tutti il numero mio, tantissime persone non hanno il mio numero, con lo smartphone sono pochi che mi chiamano, sono pochissime le persone che hanno il numero dello smartphone, per cui non è per quello che tengo l'altro piccolino, ma è piccolo l'altro, non me ne dà fastidio in tasca, no? Mi dà più fastidio le chiavi della macchina, beh, sono poco, nel senso che sono più ingombranti che il resto del polino, no? Più problemi non me ne metto. Tu mi dirai, ma come mai io nello smartphone potrei mettere la stessa scheda del telefonino piccolo, potrei metterlo anche nello smartphone perché ha la possibilità di mettere due schede, no? Però siccome è più grande quella scheda lì, dovrei andare lì al centro Vodafone, come fare la scheda piccolina, ma non tanto per pagare, ma che cosa paghi? Paghi siano 10 euro, ma invece no, in questo caso ho due telefoni, ma ho due posti possibilità, si mangia una batteria e carica, di uno c'è l'altro, per dire, no, premesso che ho anche il caricatore che si mette portatile, ho un caricatore che in caso di necessità mi attacco quello, che è come il telefonino stesso, è come avendo due in mano, il boccuglio da l'altro e una ricarica tranquilla, la grande, problemi non ne ho. Avanti, Franco. Sì, ma a volte conviene, il caricatore conviene, perché mentre lo stai utilizzando lo puoi tenere attaccato, lo puoi tenere, io ne ho uno che fa otto cariche, mi fa otto telefonini, mi può caricare, e due insieme, due alla volta. E ti dico che molte volte che lo sto usando, che sta consumando, gli attacco quello e me lo tiene sempre stabile. Sì, infatti, quello sì, io ce l'ho, e dura moltissimo, quel caricatore dura molto, anzi con quel caricatore mi ricarica addirittura il telefonino, tutto ricaricato, e poi lo posso anche staccare dopo l'ha ricaricato, e ne avanza anche di corrente dentro il caricatore. Poi quando mi metto a caricare il caricatore, faccio il collegamento in serie, tutto attaccato, e carico contemporaneamente sia il telefono che il caricatore, per cui va benissimo. Anche quello me l'aveva regalato, no, quello me l'aveva regalato il mio genero, quello lì, l'aveva regalato, di Natale mi sembra, di Natale forse, boh, non mi ricordo bene, ma mi sembra di sì, di Natale, me l'aveva regalato quello, per cui ho anche quella possibilità. Avanti, Bacchì. Sì, a sera si porti a prescere la batteria della macchina, sotto braccio. Ah, non c'è bisogno di prendere la batteria sotto braccio, perché c'è anche il filo, attacchi alla cosa, come si chiama? All'accendisigari, ho il cavo, attacco lì e carica anche lì, però mi carica solo quando il quadro è inserito, cioè quando io sono in macchina, che sto guidando lo posso mettere a caricare, ma se mi fermo, allora no, perché una volta che tolgo la chiave non funziona più l'accendisigari, per cui a meno che io faccio un impianto diverso. No. Caduto Sigio, io farei caduto, devi fare un impianto diverso qua, no, c'è il portone aperto, capito? Giulio! Mi deve essere mancata la corrente. Mancata la corrente? Sì, probabilmente gli è mancata la corrente, perché è partito tutto in un colpo, non è la prima volta che gli manca. Ecco, la zona, ma fare le gocce d'acqua qua a Sassari, siamo a piedi a bagno ora. Io avevo parecchi anni fa, parecchi anni, sì, una decina d'anni è già, che abitavo nella casa, nell'altro appartamento che c'ho sotto qua, e che avevo il cavo dove c'era la valvola della corrente che dovevano toccare solo loro, quelli dell'Ener, quella lì, e che avevano un coperchio rotto. Entrava l'acqua e mi scattava, tutte le volte che pioveva mi scattava la corrente e dovevano intervenire loro per forza. Non scattano che c'è fuori un casotto quello lì, non si fido, la chat da me ce n'è una, ma non funziona, non c'è nessuna limitazione. L'hanno messa non so che cosa sul portone, è tutta svingogliata, tornata degraziata, infatti quello che avevo pensato la facciata. Abbiamo avvisato se la potevamo rimuovere, ma detto, no, dice quello deve trovare lì, lascia la Ivi. Tanto non mi devo fare la baciata io, ma che devo venire la cappola L. E allora? Io qua quando abbiamo fatto la facciata, tutti i cavi che loro avevano dismesso, le scatole, quelle cose lì, tutte quelle cavi, tutto, tutta terra, tutto buttato via, non mi ne voglio. La facciata era mia, non era giusta. Fatiglio! Ragazzi, io sono entrato per avvisarvi che sto chiudendo perché mi è arrivata gente. Ok, ci sentiamo alle prossime. Ciao Bacchiglio, ciao Giulio, ciao Franco e ciao Luca. Ci sentiamo alle prossime. Una domanda per il Tore, nulla da fare, non sono mai venuti. Cappa. Ciao Tore, ci sentiamo, dai. Magari se ci siamo, ti aspettiamo qua. Va. Ma chi ti stava salutando Tore? Da chi? Sto chiudendo perché mi è arrivata gente e non è, l'ho salutato a tutti. È fatto bene, ciao, ciao, salutissimo, saluti in casa, a domani, bye bye. Ok, ciao a tutti. Capito? E gli ho buttato tutto a terra, non se me ne frega. Ma facciate la mia, oggi ho detto, non è la vostra. Purtroppo, qua sono molto comodi. Molto comodi sono. Infatti quello di campagna, cioè, il contatore di campagna appartiene a Sorso. Siamo da Sassari 3 km e quella linea appartiene a Sorso. C'era lo sportello del contatore rotto, sai quante volte sono andato lì a Sorso, cosa dovevo cambiare? Non ne ho un'idea. Alla fine ho trovato uno che conoscevo, ma mi dice io ti do con lo sportello, senza nulla. Mi cambio rovescio e si pone lì, 30 volte si misura, e così ho fatto, però di mandare a cambiare, mettere serratura, mai, non sono mai venuti. Non sono delicati, no, ma per carità. E vengono solo, addirittura una volta quando venivano, la prima volta che sono venuti mi ha detto, dice, lo sa, c'è colpa tua, tu ci deve pagare l'intervento. Aiutati, c'è colpa mia, pago l'intervento. Oh, non mi hanno detto, non è colpa sua, non è colpa di quello, se non sono andati, è una cosa d'argomento, se non sono andati, non mi hanno detto nulla, una cosa è mezza all'anno. Esatto. Un torto loro, l'hanno rifatto con i piedi, oggi venivano e fanno una cosa, domani veniva la base diversa, alla fine dopo non si compra di più nulla. No. E vabbè, guarda che vuoi fare, a volte dicono che comandano loro, però fino a un certo punto. E così. Ma ti volevo chiedere l'altra volta, tra. Giovannino Alessi ancora si trova? No, ho capito, scusa. L'altra volta devo chiedere se Giovannino Alessi si trova ancora. Giovannino Alessi? Alce, Alce in frequenza faceva chiamare. Ah, non lo so, lo sai. Non lo so perché non l'ho più visto. Non lo so se è morto oppure se è vivo ancora. Non posso dire questo. Io sono anni che non lo vedo. Prima qualche volta scendevo a Sorso lo incontravo. E c'era il negozio che vi era, il fesso di Bergonzi era il negozio. Sì, ho capito, sì. Guarda, detto la verità, non lo so, non ti so rispondere su questo. No, ma perché non ho più visto né sentito nulla, ha abbandonato tutto, proprio tutto. Lui come Giuseppe, la stessa cosa. Giuseppe c'è ancora il negozio o no? L'ho mollato l'aveva. No, l'ha chiuso il negozio, ma Giuseppe è già in vivo, Giuseppe già lo vedo ogni tanto, deve passare col furgone, che ha sempre delle scale sopra il furgone, questo furgone qua. Però lui il negozio l'ha chiuso. Ah, chiuso. Ehi, di tanta roba l'avevo comprato. Immaginati un po', ho preso il primo rosmetro da Giuseppe, l'avevo pagato 14.000 lire, e mi sembra che sia nel 74, 73-74. Già è dirigia. L'alimentatore c'era ancora, l'alimentatore funziona ancora, c'era ancora quello lì, è piccolino, è un 5 watt, 5 ampere vuol dire, è piccolino, c'era ancora, ma è... Quel periodo vendeva anche queste cose, vendeva? In quel periodo cavo, pelle, tutta quella porcheria, c'era Giovannino, c'era la baracchini, di tutto c'aveva. Sì, Giovannino poi se n'era andato e se l'ha messo in proprio. E poi se n'era andato e se l'ha messo in proprio, si era messo più in su di Bergonzi. Anche Giovannino faceva lo stesso lavoro. Sì. La via di fronte alla caserma vecchia, Giovannino c'è ancora, c'è Giovannino, lui c'è ancora. C'è ancora il negozio Giovannino, non sono più andato, no. Avevo avuto la necessità di andarci a trovarlo. Frigorifi, lavatrici, cucine, tutta questa roba c'aveva. Solo che a volte lui, io sono da parecchio che non lo vedo adesso, perché a volte adesso ci sono i figli, ci sono, il Giovannino. volte lui lo trovi. C'era la moglie che era malata, nel periodo modulato c'era la moglie che stava male. Sì, è stata male un periodo la moglie. Infatti poi hanno adottato due bambini, hanno adottato con Miri. E è vero che ce la cavano. Ho adottato due neri. E vabbè. Quello è un fratello bene. Ehi, capo. Sì, mi sembra che sono due fratelli, ho capito. E è fatto bene, dai. Tanto non avevano figli. Magari quello non lo so, i problemi, però se non le potevano avere era meglio. Infatti. Sì, ma diciamo così, anche compagnia. Erano soli, allora hanno avuto anche compagnia. Questi due ragazzi hanno portato anche compagnia, non è solo che la dia a mangiare, vestire e roba, ma anche la compagnia è più importante di quello. Capo, sì, e sono anche due bravi ragazzi, che ce l'ha da piccolini, li ha fatti studiare, li ha fatti, adesso sono grandissimi. Non sono ragazzi di almeno di 20 anni adesso, sono anche di più. Sì, buono, sì. Ce l'hanno a forza di più anche di 20, avranno. Perché li ho visti, sembrano due montagnette. Capito. Confronto Giovannino, allora sta di Giulio. Capo. No, adesso sono due belli ragazzi. Va bene, Giulio, Giulio c'è sceso, non c'è corrente. E non c'è neanche il coso qua su. Non ce l'ho, solo aver chiamato. Hanno fatto allora delle medicine per me, però. Ti devo lasciare perché devo andare giù a prendermi le medicine. Ci sentiamo alle prossimine. Grazie della chiacchierata, però. Saluto in casa, a domani sei dovuto concile. Ma chi se sei passato in corretti causa medicine? Riprendi Franco. Ok, ciao Battisio, grazie anche a te della piccola chiacchieratina. Ci sentiamo tutte le prossimine. Buon proseguo di serata. Ciao ciao. Ciao Franco, ciao. Ciao anche agli ascoltatori. Buonasera, ciao Battisio. Ciao Franco. Ciao Gianni, ciao, buonasera. Franco, già chiuso? No, non l'ho chiuso. Stavo rispondendo al telefono che mi hanno detto di passare al 12. Aspetta che un attimino, che passa al 12. Prego.